vita che può provocare gravi problemi neurologici. Per quanto riguarda l'affermazione che l'aspartame aiuti a tenere sotto controllo il peso, essa è contraddetta dall'epidemia di obesità negli Stati Uniti, del Regno Unito e altrove. Comunque, fatta ancora più allarmante, le reazioni tra cui consumatori di larga scala sull'aspartame e sulla soda dietetica, per esempio, assomigliano a patologie come la sclerosi multipla, ti fa venire, la depressione, il diabete, il linfoma, l'artrite del morbo di Alzheimer, gli attacchi di panico, le crisi epilettiche, il morbo di Parkinson, l'ipoidroidismo. Adesso dimmi tu, porca miseria, dice così, quasi 2/10 hanno migliorato una pena e si hanno escluso l'aspartame dalla dieta. Adesso per farti capire, no? Uno dice, vabbè, ci prendiamo le caramelle senza zucchero per problemi di denti, così non mi viene mal di denti, e poi alla fine molta gente non sa, porca miseria, di che cosa ti stai mettendo in bocca, ma te ne rendi conto, le sapevi queste storie? Ti dico anche una cosa, che io uso il dolcificante, quindi mi stai aprendo gli occhi. Io usavo il fruttosio sino a poco tempo fa, che sono estratti dalla frutta, e sono zuccheri che assimili lentamente, mentre invece lo zucchero normale viene assimilato tutto di colpo al pancreas, quindi ho preferito prendere questo, diciamo, questo fruttosio. E poi l'ho cambiato con queste bustine perché sono più pratiche di, diciamo, di dolcificante, e penso che proprio contenga aspartame. Veramente, se stai utilizzando, allora questo qua, diciamo, un medico conosciuto, e vabbè, conosciuto all'epoca, è morto più di 30 anni fa, è riuscito a scoprire alcune tecniche di guarigione senza introdurre medicine. Infatti in questo libro ti spiega cosa cura e cosa non cura. Quasi te lo compri, è abbastanza interessante, è una tecnica un po' lunga, però riesci a guarire un sacco di malattie senza introdurre medicine. No, per farti capire, sicuramente tu stai usando quelle piccole bustine che ne contengono veramente poco di questo zucchero, che è bianchissimo, giusto? Ne basta neanche una punta che ti dolcifica una tazzina di caffè, giusto? E una bustina. Esatto, dunque, penso che non scrivano stupidaggini, dunque alla fine ci avrei pensato più di una volta di dolcificarmi un caffè, alla fine avrei preferito berlo senza, o sbaglio? Non ti fanno pensare queste cose? Tante volte, ma come mai lo lasciano nel commercio se sanno che fa male? È quello che dico io. È come il fumo, sanno che fa male, ti scrivono che chi fuma muore, che il fumo fa male, fa morire, però continuano a vendere. Esatto, e quello è il controsenso. Alla fine, arrivato a un certo punto, ti fa pensare che qualsiasi prodotto, che sia anche di marca, che viene pubblicizzato ogni giorno, che gli fanno degli sconti impressionanti, uno dice, vabbè, prendo qualche prodotto di marca, così, tra virgolette, uno dovrebbe avere un po' di sicurezza. Ma arrivato a un certo punto, guarda, se leggi alcune cose che veramente non ti vengono dette da nessuno, te ne cadono le braccia. E poi ci sono altre cose, giustamente, da evitare in questa terapia, in cui ti dice il fluoro, un esempio. Tu da piccolino come me, sicuramente anche i tuoi figli, prima, anzi durante l'anno scolastico, se non sbaglio dovrebbe iniziare dalla prima elementare, ti regalano quei piccoli contenitori di pastigliette che vengono date una volta al giorno del fluoro. Ai tuoi figli mi è capitato questa occasione di prendere il fluoro, pastigliette di fluoro che sono piccolissime, hanno un color viola. No Antonio, io prendo solitamente, non l'ho mai preso quello lì, no, quello no, ma il fluoro di solito nel dentifricio, lo uso il dentifricio che abbia anche il fluoro incorporato. Ecco, perfetto, allora spiegami, per quale motivo, qui dice il fluoro e ne parla anche del fluoro, abbastanza interessante questo, tu perché compri il dentifricio al fluoro, per quale motivo? Che dice che pulisce di più i denti, li rinforza, eccetera, eccetera, il fluoro. Vuoi che ti lega del fluoro? Guarda, io ho letto questo e dal giorno sto comprando dentifricio senza fluoro, e dice così, il fluoro, tra i fattori che minimano la difesa del corpo, il fluoro merita un'attenzione particolare. Mentre da un lato vengono esaltate per motivi commerciali nei suoi dotti in materia di salute dentale esso di fatto un pericoloso veleno, uno scarto industriale contenente piccole quantità di piombo, mercurio, bellirio e arsenico in piccole quantità. Ragione per cui il governo USA impone, attenzione, l'aggiunta di fluoro all'acqua potabile è che esso migliora la salute dentale dei bambini, che però, come riconosce il senso comune, non è minacciata da una carenza di fluoro, bensì da una dieta poco sana, un'igiene dentale insufficiente e troppi dolci. Giustamente uno mangia meno dolci, giustamente ha meno problemi di carie e così via. Secondo alcuni esperti, il fluoro protegge i bambini e dei bambini solo sino all'età di 5 anni. Poiché quel gruppo di età comprende solo una piccola percentuale della popolazione, sembra indifendibile l'idea di costringere tutti ad assumere questa sostanza chimica molto controversa, a prescindere dallo stato di salute dentale dell'età. Ok? Inoltre ci sono prove che dimostrano che la fluorizzazione non migliora la salute dentale dei bambini in modo duraturo, d'altra parte essa causa fluoruri in bambini su 8, provocando denti schiariti e scolorati. Negli USA, secondo i dati diffusi nel 2003, nonostante la fluorizzazione, più della metà dei bambini dai 6 ai 8 anni e due terzi dei ragazzi di 15 ha problemi di carie dentale, eppure usano il fluoro. Si dice anche che l'assunzione prolungata di fluoro può essere collegata a un maggior rischio di tumori, fratture dell'anca, osteoporosi, problemi ai reni e persino difetti congeniti. Immaginati tu, vediamo cosa dice qua. Ok, allora il dottor non so chi, che più di 30 anni ha lavorato come chimico statunitense, ha dichiarato che il fluoro provoca più morti umani per cancro e più velocemente di qualsiasi altra sostanza chimica. In seguito uno studio durato 17 anni ha scoperto che aumentando la fluorizzazione aumentano i casi di cancro orale e di osteoporosi e poi anche una rara forma di cancro osseo nei giovani umani. Un incremento di casi di cancro orale di osteosarcoma osservato nello scorso decennio sembra confermare la scoperta di una relazione statisticamente significativa tra la fluorizzazione dell'acqua e dei dentifrici e la cancerogenicità del fluoruro di sodio in relazione a questi due tumori. Dunque, porca miseria, in poche parole, devi avere anche paura di lavarti i denti, perché sì, è vero, si è assillato ormai pubblicità e tutto quello che comporta. Se non ti lavi i denti con un dentifricio al fluoro, i denti non sono puliti, eppure la gente non sa che è un veleno, ma te ne rendi conto? Scendo già. Cosa? Se stavo uscendo. Sì, stai uscendo, sì, ti stavo ascoltando. No, mi sono inchiato e mi è caduta roba, non potevo rispondere. Levenza. Cosa? Ah. Il peso è arrivato a un certo punto, ma te ne rendi conto che non ti puoi fidare neanche di quello che compri? E pur pagando anche salato queste cose, secondo più uno marca prende. Ecco. È registrato un attimino. Tanto a me, non so, purtroppo ci dovremmo chiudere in una buccia di vetro, perché tutte le cose sono così, anche l'acqua che stanno mandando a Sassari è gialla e non fanno niente per migliorarla. Anche a Porto Torres è gialla lo stesso, stanno comprando per cucinare l'acqua che vendono. Avanti Giuseppe. Ehi, buonasera a tutti quanti componenti del canale 10. Volevo solo una piccola cosa, stavo uscendo di radio e tutto quanto, cambio. Stai uscendo, se ti abbiamo risposto, caro. Ciao Maciottone. Ciao Frutione, buonasera, beato che ti risente dopo una marina di tempo. Io ti ringrazio, Trondione, anche per te. No, niente, tu giustamente la sente perché lavoro fuori sede da Sassari. E niente, tu mi anche tu eri un pochettino assente. Comunque ben sentito e buonasera. No, stai uscendo bene. Qui Santiago 9, quasi Radio 5, ci siamo e ti sento la modulazione super chiara. Ciao, va bene, dai, riprendi già, che chiudo l'apparato, dai. E ti muti un po' niente. Non sto bruciando niente, no, stavo controllando solo che non saliva lo smitter, capito? Non bruciando, forroiente apponato. Vedete, forroiente, vuol dire cosa stai toccando dentro? Niente, no, stavo solo controllando perché non funzionava mai lo smitter, capito? Adesso l'ho toccato un po' e adesso si è messo nuovamente a posto, dai. E come sta fermo? Sta fermo. Se lo fai andare, per forza si incolla. E cappa. Allora ti aspettiamo, Leonci, se ne hai voglia già siamo qua. Cappa, vabbè dai, se riprendete pure, dai. Eia, vai già. Sì, eravamo rimasti, Antonio. Eravamo rimasti che hai fatto un certo punto, guarda, ti fanno pensare queste cose perché è impressionante. No, perché io mi ritengo questa terapia che è abbastanza strana, e poi ti dico in due parole come ti devi comportare per depurare il corpo, per togliere effettivamente delle tossine. Poi ho visto anche dei video su internet, cose impressionanti, facendo questa terapia cosa ne cacci fuori. E poi parla anche dei cosmetici delle donne, cosa diavolo si mettono in faccia, poi delle vaccinazioni che ti obbligano a fare, diciamo, quando nasci, sino adesso se non sbaglio sino a 10 anni, vabbè, campi elettromagnetici, poi lo stress e tante altre cose. Dunque, questa tecnica consiste così, di autoguarigione, ecco. Alla fine devi fare una dieta particolare di frutta, di verdure e di cereali, eliminando completamente carne e i suoi derivati, formaggio, pesce, zucchero bianco, puoi usare solamente zucchero di canna, e poi saltuariamente devi farti dei gliceri di caffè biologico, in poche parole devi precomprarti dell'acqua demineralizzata, farla bollire, metterci 3 cucchiai di caffè, proprio di caffè biologico, tostato, leggero, farlo bollire per 3 minuti a fuoco alto, poi abbassare la fiamma e farlo andare altri 15 minuti e spegnere. Per arrivare giustamente alla temperatura corporea, nel frattempo che in questo 20 minuti di ebollizione evapora l'acqua, giustamente devi aggiungere, devi farlo arrivare a 1 litro completo, e tu giustamente devi fare un glicere di caffè, resistere il più possibile, massimo da 12-15 minuti, e poi scaricare direttamente in bagno. Questa è la tecnica di questo medico, che è abbastanza famosa, l'ho guardato su internet, ce n'è per tutti i gusti, diciamo la terapia come funziona, che benefici ti dà. L'unico, diciamo, problema è i glisteri, ti devi abituare a farti i glisteri, e in più è cambiato totalmente il modo di mangiare di tutti i giorni, e ti ha la possibilità di guarire da diverse malattie, e nel semplice fatto funziona perché ti depura completamente il corpo dalla testa ai piedi. E tu la stai seguendo alla lettera, Antonio? No, sinceramente ancora sto continuando a leggere il libro. Nel frattempo, ripeto, ho fatto questa ricerca su internet da un amico, e se guardi su YouTube, guarda, è arrivato a un certo punto, in poche parole, facendo questa terapia, diciamo, nel nostro intestino, ci sono tantissimi microrganismi e particelle che si attaccano al tessuto, e grazie a questo glicere e alla dieta, dopo, non so, una decina di gliceri divisi nell'arco del tempo, nell'arco delle giornate, le cacci fuori, cose talmente impressionanti che si sono attaccate lì, diciamo, nel tessuto dell'intestino da quando sei nato, rimangono lì ferme e col passare degli anni si incollano e ti danno dei problemi. Dunque, grazie al caffè, a quanto pare, il caffè, la caffeina, depura il fegato, il sangue, e poi riesci a farti cacciare cose che tu hai dentro il corpo e tu manco ti immagini. Poi, se tu c'hai internet, ne vedi cose veramente impressionanti, giustamente seguendo questa terapia qua. Ti depura il corpo completamente, talmente te lo depura che dà la possibilità al corpo di autorigenerarsi e curarsi le diverse malattie che uno ha, che neanche sa, arrivato a un certo punto. È un bel metodo, è veramente particolare, strano, cosa giustamente che i medici neanche ne hanno la più pallida idea, e che stiamo per dire, è mal di testa, una semplice tachipina, topizumi, metti la medicina e vai tranquillo che ti passa, poi alla fine non te lo risolve mai il problema, capito? Questo invece va proprio a fuoco nella situazione. Prego. Avanti. Buonasera. Buonasera signori, salutone in tutta la ruota. Ciao Gianni e Ossilandia, buonasera. Porto a Torre se mi sentito, sei in compagnia mia di Gianni e tra un po' dovrebbe rientrare Leoncino. Ciao Sandro, mi hai sentito, cordialità anche a te, dai. Non so se hai sentito il discorso che stiamo facendo. Ehi capo, no, ho sentito qualcosina, ma insomma, rimarrei un attimino su chi va là. Poi logicamente ognuno del proprio corpo e buttare dentro determinate cose è liberissimo di fare come meglio crede o attone. Maggiormente queste informazioni su internet. Sicuramente anche d'accordo, anche io ero scettico e poi ho fatto qua quel libro direttamente, questo professore è esistito. Ed è una terapia che sinceramente ci sono in alcune parti del mondo che sono aperte delle cliniche proprio che eseguono questa terapia Gerson. C'ho anche il DVD. Per alcuni tipi di cancro a quanto pare ci sono degli ottimi risultati, molte persone sono guarite senza medicine. Però in queste cliniche deve aver bisogno di 15.000 euro a settimana per stare lì ed essere curato, dunque è una cosa abbastanza costosissima. Che viene fatto, se non ricordo male, in Spagna, in America, sì, no, aspetta, Spagna, America e India, ci sono queste tre cliniche uniche al mondo che utilizzano questa terapia qua, però ci vuole una barca di soldi, purtroppo molte cose non si sanno, sì, anche io un pochettino ero scettico, e lo sono ancora, ma sto cercando di capire un po' la situazione. Questa persona, questo medico curava le persone senza medicine, facendogli eliminare qualsiasi cosa, ne parla anche moltissimo dei prodotti che si usano adesso per dire per le ascelle che cosa provocano, per dire un esempio, senza andare molto lontano, guardi in televisione e c'è questa pubblicità cillante che parla diciamo dei problemi di ascelle, se stai sudando i guai ne scampi libri, hai bisogno di uno stick per le ascelle o lo spray del borotalco così non hai problemi di sudore, altro va il sudore, ma arrivato a un certo punto si sa benissimo che se uno suda, il corpo umano suda, sicuramente c'è un motivo, per quale motivo devi bloccarlo solamente perché adesso c'è l'idea, anzi l'asilo che fai solamente brutte figure, sa benissimo che perché uno suda c'è bisogno che il corpo deve sudare, perché bloccarlo con questi prodotti? Molta gente viene condizionata dalla pubblicità e poi alla fine, morale della favola, col passare del tempo ti senti male, non sai per quale motivo e poi alla fin fine è provocato per dire dagli stick solamente per non farti sentire l'odore del sudore, o sbaglio, diciamo per queste cose ne parla, penso che non ci voglia, bisogna essere un medico per capirle, o sbaglio? Ok, ma oh, Antonio, io ti posso dire che se il corpo suda evidentemente è un fattore normale, c'è chi può sudare di più e c'è chi può sudare di meno, però se tu adotti delle alternative per evitare il sudore, poi bisogna vedere, possono venire delle conseguenze, possono venire fuori delle allergie, il corpo stesso non lo accetta, insomma, e quant'altro. Quindi prima di reagire, diciamo, meglio sempre consultarsi di chi ne sa più di noi, capisci? Potrebbe essere anche un parere del medico quello, Antonio. Io non lo metto in dubbio, guarda qui prima dice, qua qui c'è una frase che dice così, uno dei primi doveri del medico è educare le masse a non prendere medicine, così dice qua. E penso che non sia neanche una cosa sbagliata, cosa ne pensi? Ok, allora non prendere le medicine bisogna vedere perché non le devi prendere, ma se devi prendere una pastiglia per il mal di testa, inizialmente diciamo la pastiglia, poi bisogna vedere se il mal di testa sussiste ancora, evidentemente la pastiglia non è più efficace, evidentemente c'è qualcosa in atto. Pienamente d'accordo, ma il discorso è, se ti viene il mal di testa ci sarà qualcosa che l'abbia provocato, giusto? Arrivato a un certo punto, lì non si va a fondo sulla situazione, dunque siamo abituati, io non è che ecco, leggo il libro adesso, grazie al libro, no, questo l'ho sempre pensato io, ti viene mal di testa, qual è il motivo del mal di testa? Non si va mai a fondo della situazione. Dunque, mal di testa, Auli, un esempio, oppure tachipirina o aspirina, basta. Però ti poni la domanda, ho il mal di testa, qual è il motivo? Cerchiamo di andare alla radice. Invece no, subito, mal di testa è una medicina. Penso che non sia una cosa non tanto giusta, e o sbaglio, se un pochettino uno ci riflette. Correggimi se sbaglio. Ok, dai. E vabbè, il primo rimedio è la pastiglia, logicamente, per demolire, diciamo, il mal di testa. Ma il mal di testa può essere di tanti fattori, può essere causato, non so, da stress, può essere causato, non lo so, da qualche allergia, insomma. E Antonè, tu renditi conto che il nostro corpo umano delle difese immunitarie, se quelle difese immunitarie non hanno più il suo percorso e diminuiscono, e allora lì è un casotto, capito? Chi comandano sul nostro corpo sono loro. E sì, quello che ne mette d'accordo, ma per come ne parla qua in questo libro, diciamo che le nostre difese immunitarie sono indebolite dalle schifezze, purtroppo, senza la nostra insaputa mangiamo, e tutti i prodotti che ci sono ogni giorno, che li vediamo normali, poi alla fine sono talmente pericolosi che con l'andare del tempo il corpo si indebolisce perché non riesce più a reagire per colpa delle sostanze chimiche che ogni giorno noi utilizziamo, non senza punta, ecco, dunque alla fine è logico che il corpo non ce la fa più, si lascia andare, e giustamente subentrano tutte le malattie più possibili e immaginabili, e quello c'è poco da fare. Aspetta un po', guarda, ti leggo una cosa veloce, vediamo un po', allora, qui dice qua, che l'ho trovato. Va bene, i pazienti sottoposti a terapia intensiva spesso hanno abbandonato sudorazioni notturne, vabbè, ok, vediamo un po', ecco qua, dice così, allora, ecco, secondo, vabbè, durante il sole il riposo sta cercando di situare, in poche parole qui dice che quando uno suda il corpo sta cercando di disintossicarsi, qui dice così, ok. Quindi dice così, gli spray, no, essi potrebbero deodorarsi con uno spray o una crema o uno stick. La stessa cosa poteva fare una persona sana che suda ogni giorno, calda durante l'attività sportiva. In entrambi i casi sarebbe un gran bello, dice così, quando il corpo cerca di disintossicarsi attraverso le ghiande sudorifere, il processo non va né interrotto né ostacolato. Bloccare passaggi ascellari con un deodorante costringerà le tossine a tornare nel sistema linfatico intorno al petto e alle spalle, aumentando il rischio di cancro al seno anche degli uomini. Vedi, secondo te questo è un ragionamento giusto o sbagliato? Questo in questo momento, vedi, sta parlando degli stick, perché tu ti vuoi deodorare e poi non ti dicono che blocca il sudore. Giusto o sbagliato secondo te questa frase che ho letto qua? Ok, e Antonè, ti potrei dire una cosa per un'altra, diciamo, non è mio campo, capito? Io potrei prendere per buono, logicamente, quello che tu stai leggendo, diciamo, da un libro, lo potrei anche prendere per buono, però, insomma, i fattori sono tantissimi, tutto lì. Dai, c'era anche Gianni, o già? No, ci sono io, è un casino con questa roba. Scusa, mi sto problemando. Fischiando tardi, anzi, sinceramente stavate fischiando tutti e due. Ma forse siamo sovramodulati. Sicuramente. Dunque, niente, arrivato a un certo punto, a volte non le sai, le leggi te ne scendono le braccia, porca miseria, tu quasi una vita, per Dio, 38 anni, buon porca miseria, Dio mio, cosa mi stavo mettendo addosso senza saperlo? È tutto lì il discorso, e non... devi arrivare a un certo punto, devi stare attento, è vero, devi vivere in una boccia di cristallo, arrivato a un certo punto, oppure le alternative già ci sono, devi cercare le cose migliori più possibile, che sono erborizzeria, per dire, cercare leggere almeno le istruzioni per darti un'idea cosa ti stai mettendo addosso alla fine, ecco, tutto lì. Poi, come ti si narra, muori di lampo o muori di drone, eh? Però sempre è meglio sapere queste cose. Eh beh, certo, almeno deciderai poi che cosa fare, invece se non le sai cosa fai. Infatti uno rimane, diciamo, ignorante in materia, è tutto lì. Ma chissà quante cose ci sono di questo genere, quante cose fanno male, tipo i bitter, i coloranti che mettono i bitter, tutte queste cose qua fanno malissimo. È vero, e poi giustamente cosa fa uno? Adesso per dire, stai a pensare, fa un bellissimo compleanno ai tuoi figli, e cosa fai? Coca-Cola, aranciata, biscotti, succo di frutta, patatine, patatine al formaggio, e compagnia bella, e poi lì, sì, è Coca-Cola, siamo abituati a Coca-Cola, aranciata, e via, tanto c'è il 12% di succo d'arancia, poi il resto in un litro, chissà cosa ci sarà in mezzo. E alla fine poi leggi queste cose e fai porca miseria, ma è tanto fatto. È un casino, Antonio. Però manco a mettercene troppe di cose in testa, perché poi non fai più nulla. E diciamo che allora la roba surgelata è la più sana. Ma boh, arrivato a un certo punto, qui parla giustamente per farti questa terapia, sei costretto, attenzione, sei costretto, ad alimentarti con frutta e verdura biologica al 100%, senza conservanti, senza coloranti, senza medicine, vissuta perfettamente al naturale, senza nessun impedimento durante la crescita della pianta. E poi fare, purtroppo, così dice, questi criteri, tutto lì, tutto il resto, ci sono anche le ricette che devi seguire, tutte alla lettera, infatti qui lo dice, o inizi e lo fai veramente oppure non farlo per niente, devi seguire perfettamente la lettera, ricette e procedimenti per filo e per segno, senza stare lì a bloccarti un giorno per avere questi benefici. E poi ci sono anche delle tabelle in cui tu dopo un certo periodo di terapia, infatti un prelievo del sangue, e confrontare, diciamo, tutti i risultati sopra le tabelle, anche qua, quando alla fine il corpo inizia a migliorare e a stare bene, vedere un po' se i valori tornano perfettamente alla normalità, capito? Tutto scritto lettera per lettera, pagina per pagina, abbastanza dettagliata è la situazione, tutto lì. Si è arrivato a un certo punto, inizi a leggere, non vivi più, tutto lì il discorso. Beh sì, è vero. Oh, Sandro, riprendi, dai. Ok. Ok, ci siamo, dai, boh. Devo avere qualche problema sul mic. Ogni tanto parte da solo. Ogni tanto parte da solo, va bene. Ok. No. Allora io vorrei sapere, tutti parlano del biologico, allo stato naturale, ma allo stato naturale cosa si intende? Che nasce e la tagli e la metti al consumo, oppure prima di nascere ti fai trattamenti? No, beh, giustamente penso che biologico si intenda far crescere la pianta naturalmente, senza mettere concimi chimici, senza pesticidi e compagnia bella, ecco. Il biologico alla fine è quello, come si facevano, non so, 30, 50 anni fa, i nostri vecchi, per dire, all'epoca, zappavano, mettevano il seme, innaffiavano, crescevano e se la mangiavano così direttamente, anche se si trovava, per dire, una mela appunta o all'interno, per dire, la sbocciavi, trovavi il verme. Adesso se non lo trovi più, all'epoca, diciamo, si trovavano perché non aggiungevano medicine e diserbanti e tutto quello che comporta. Alla fine il biologico è quello, nasce, cresce e raccoglie senza nessuna aggiunta. Poi se la melanzana ti cresce più piccola, pascescia, ma almeno sai che è cresciuta sana, tutto lì. Ok, sono d'accordo con te, quando è sana, ma se oggi di sano non c'è niente, se oggi c'è anche l'aria che respiriamo che è malata, ok? Adesso per dire, fanno i trattamenti, diciamo, per parassitari, sia per le alberi, diciamo, da frutto, sia, diciamo, per diciamo, sia le verdure e così via, fanno i trattamenti parassitari. E beh, questo non è più un procedimento biologico, eh? Assolutamente. Sicuramente no, pienamente d'accordo, non è più un procedimento biologico, perché si è usato dei medicinali, tutto lì, la puoi fare, lo si sa benissimo che la frutta e verdura, qualsiasi altra cosa la puoi lavare, quanto vuoi anche col bicarbonato, sicuramente una minima parte la pianta ce l'ha assorbita, non tramite le radici, c'è poco da fare, sì, è arrivato a un certo punto, è vero, e anche l'aria che respiriamo è più sana come prima, da 100 anni a questa parte, all'inizio della rivoluzione industriale, sì, è vero. E viviamo in un mondo di merda, dai, morale della favola, o sbaglio? Oh. Guarda, non dico che sia una santa parola, per carità, però siamo lì, dai, no, c'è poco da fare. È inutile che vengano a dire biologico, biologico, biologico, quando poi i trattamenti li devi fare. Antilumanca, per i carciofi adesso c'è questo insetto che si mangia le foglie e divora le foglie, e quindi devi fare un trattamento. Quindi siamo sempre, perché l'aria è sempre inquinata logicamente. Riprendi, già? Sì, in effetti è così. Tutte le piogge acide, tutte le cose, le risparmi da una parte e le prendi dall'altra, tu mi dai sempre a me, non so. Sì, sì, quello già è vero, noi arrivato a un certo punto devi, cosa ne so, se arriva a 100 anni, arrivato a un certo punto, come è scritto qua, di essere veramente fortunato, di avere veramente un fisico abbastanza forte per agire, diciamo, a tutti questi piccoli veleni che uno prende. Se no ne parla molto anche qua, per dire McDonald's fa così, una colazione da McDonald's a meno di 1 euro in realtà costa molto di più. Bisogna aggiungere il costo di un bypass coronario e poi ti spiega tutte le schifezze che si mangiano al McDonald's, per dire, no? Quando vai a città mercato c'è tanta gente appranita, io ci ho mangiato anch'io, una o due volte me l'ho mangiato un panino lì, porca miseria, è buono, ti attira, Poi leggi qua cosa contengono i panini, i cibi del McDonald's, alla fine, Dio mio, e t'ha pomandicato d'orra, allucinante, dunque, e lì ci metti una croce, almeno lì. Ok, dai, vabbè, c'è di tutto e di più, dai, c'è di tutto e di più, tu considera che per far sulla grande distribuzione i grossi, diciamo, coltivatori, per poter far arrivare sul mercato, diciamo, sulle distribuzioni, adesso noi parliamo della frutta, la frutta non viene mica fatta maturare, viene, diciamo, raccolta prima del periodo, buttata nella cella frigo e fatta maturare nella cella frigo. Lì ci sono gli antiossidanti, perché viene fatto un trattamento, antiossidante, cioè è più di là e più nemico, quindi dove sta il biologico, per piacere? Sono pienamente d'accordo con te, poi alla fine, diciamo, tutti questi procedimenti che fanno, arrivato a un certo punto, si sa benissimo che la fanno solamente per il profitto, tutto lì, arrivato a un certo punto, le metto solamente per guadagnarci, no? Perché se ti vendono una mela con punta da un verme, si sa che non, nessuno la mangia, le fa schifo, dunque devo cercare in modo che la mela si presenti perfettamente integra, grande e super lucida, e dunque sì, alla fine si fanno solamente per interessi queste cose, è vero. L'unico discorso di biologico è riuscire a trovare qualche piccolo agricoltore che ne fa il tanto per lui e per vendere qualche usettina e vedere un po' come lavora la situazione e garantirti che quel poco che fa lo mangi come si deve, tutto lì, ma è abbastanza un po' rara la situazione, tutto lì, e ti tocca giustamente girare. Adesso siamo abituati che sotto casa trovi di tutto in due passi, dunque ognuno si ha preso, diciamo, l'abitudine di essere super comodi, ecco, chi è che ci pensa e che se ne frega, mi faccio un giro, mi becco qualcuno, no, e me ne vado lì in negozi, 448 ho fatto già la spesa, invece devi cercare il biologico, devi girare, e giustamente ci vuole il suo tempo, ormai il benessere ci ha portato a essere anche un po' troppo mandroni e giustamente anche da lì ci prendiamo le conseguenze. Senza andare tanto lontano, personale, quei mercati del biologico li fanno all'emiciclo, a Sassari, al Ghevo e a Porto Torres. Sì, è vero, sì, all'emiciclo che c'è da poco, con gli stand tutti gialli, giusto? Sono tutti piccoli produttori della provincia di Sassari, vero? Yes. Dunque almeno lì sperando un minimo di garanzia dovrete averlo, vero? Giustamente bisogna chiedere e poi si ti danno anche la possibilità di vedere come lavorano, diciamo, il prodotto. Se avanzate ti puoi dare anche un'idea, ecco, ti tocca sperimentare, è arrivato un certo punto a cercare. Allora, infatti, poi anche se non sono tutti biologici, ma se in gran parte sono così, poi alla fine la cura vale lo stesso, va? Sì, quello sì, però dai, i turisti già non fa sempre male, ti fa un po' pensare, porca miseria, tutto lì, forse quello è il problema, non conviene leggere, così non pensi e vai sino a quando arrivi. No, il problema è che i gugiti roba che fa male, capito? Il problema è quello, è che nessuno ferma la vendita di certi prodotti, messi pesticidi, tutte queste cose qua, lumachicidi, cos'è quello che mettono sulle piante. Comunque a me, una persona, un socio mi ha detto praticamente che vicino a lui c'è uno che c'è il terreno e c'è scritto che vende roba biologica. Biologica dove? Se l'ho visto io mettendo i concimi chimici, dice che sono biologici, però non è vero. Sì, è vero, c'è anche quel problema lì, già, vedi, arrivato a un certo punto bisogna sperare che c'hai, come ti posso dire, un buon sistema immunitario che ti dia la possibilità di rimanere almeno a 100 anni, dai, tutto lì. Vabbè, anche se non è così, speriamo bene, ma non mi credo. Tutto quello che c'è di inquinamento nell'aria, poi sto rifumando, per me è la cosa più brutta. Porra, mi hai detto che la buttavi. Certo, allora sono stato una settimana che non fumavo e poi ho ripreso. E allora vedi, adesso quanto sei, un mesetto buono ci sei, o di più, che fumi? Più. E allora ti stai rifregando di nuovo, Senti, da te rifregando di nuovo, buttala via. Ambiro. E vabbè, a volte è un po' nervoso, un po' tutte le cose, magari hai problemi, cose, ti fumi una sigaretta, sembra che ti passi. Quello è il problema, è proprio vero. Ma almeno fortunatamente, come si dice a Fannapoli, mi viene il nome adesso, Sandro non fuma, vero sa? Fumo leggero, però fumo, capito, però fumo, lo so, sappiamo che è una brutta bega, però è come stava dicendo Gianni, che magari in quel momento potrebbe essere quel momento di sollievo, quando ti fuma una sigaretta e poi punti a chiappo, e sai cos'è? Tutto l'è messo insieme, magari un po' il lavoro, un po' il tenore di vita, un po' ogni tanto magari ti arriva qualche batosta, per cercare di recuperare, cercare di stare un po' meglio e tranquillizzare, cerchi che la sigaretta sia il metodo più efficace, ma poi in fin dei conti sappiamo benissimo che lei ha il suo, diciamo, percorso tutto quanto, e tante cose ci sono ancora. Quello già è vero, però avevo sentito, se non sbaglio, in televisione che i maggiori fumatori, diciamo, della faccia della terra sono, se non sbaglio, sono orgogliosi, i cinesi. Sono grandissimi fumatori, tra l'altro da quanto fumano è talmente minima il cancro ai polmoni che è impressionante. Allora, porca miseria, come fanno loro a durare così tanto? Quando ne fumano più di 2 pacchi al giorno, porca miseria. E cancro ai polmoni, sì, li viene, ma proprio in percentuale una minima parte con tutte le persone che fumano. Dunque, c'è qualcosa che li protegge, sicuramente l'alimentazione, il modo di mangiare, è possibile. Vado a capire. Purtroppo Antonè, ogni essere umano ha le sue funzioni, capito? È come classici motori, capito, che vengono prodotti a catena di montaggio, no? C'è quel motore che dura un'eternità e c'è quel motore che si è appena messo su strada, toglie fuori dei difetti. E quindi il corpo umano è così, e purtroppo c'è chi resiste, diciamo, a determinate situazioni e c'è chi invece con le situazioni non riesce, diciamo, ad affrontarle, e quindi deve ricorrere, diciamo, alle medicine. Le medicine, già lo sai benissimo che le medicine tamponano, capito? Ti vanno a tamponare appunto, però nello stesso tempo nell'altro punto magari sta danneggiando, dando fastidio. Quindi insomma il nostro corpo umano è come un motore, guarda, tu se non cambi il rullio a quei determinati chilometri, il motore sta già soffrendo, quindi lo stai sfruttando. E lì siamo lì, e allora da andare più avanti, conviene fare più di un cambio d'olio, arrivato a un certo punto, è già vero. E vabbè, si prende come viene la vita, tutto lì, ma intanto già ci vuole un discorso diverso per vedere cosa ne pensano gli altri. Ok, ma lo sai cosa ti dico, Antone, guarda, io ti posso dire una cosa, io... l'unica cosa che ti posso dire è la sanità ormai è arrivata a livelli allucinanti. Io da poco ho conosciuto una struttura abbastanza all'avanguardia, non la conoscevo, ho avuto, chiamiamola sfortuna, chiamiamola come vogliamo, ho conosciuto a Sassari una struttura privata veramente all'avanguardia, guarda. Forse Gianni mi ha capito. Kappa, ho capito, e al volo pure. Se non fosse per chi ci sta dentro, sarebbe un albergo. È un albergo, Gianni, è un albergo quello lì. È una struttura veramente, veramente all'avanguardia. Io ho visto dei sistemi all'avanguardia che in strutture pubbliche non ho visto, e lì ci sono dei sistemi veramente all'avanguardia. Io ti parlo come attrezzatura, ti parlo come tecnologia avanzata sulla medicina e quant'altro, però nelle strutture pubbliche non le ho viste. E allora come mai? Giustamente ti fa pensare questa cosa, non è un controsenso. Dire adesso è arrivato a un certo punto, qua in Italia si sta arrivando come in America. Se hai soldi, sei benestante, hai la possibilità di curarti, di avere una possibilità in più. Chi non c'ha niente, chi è povero, la maggior parte penso, un po' come tutti noi, non hai soldi, devi morire, porca miseria. Dà fastidio questa cosa o no? Eppure le tasse vengono pagate ogni giorno anche per avere un indomani, sempre più tardi, un ospedale in cui ti possano curare senza togliere un soldo da tasca. Tanto ti hanno già detratti dalle tasse. E più per andare avanti devi ripagare per farti trattare bene in ospedale. È uno schifo veramente. Stiamo diventando proprio... L'Italia è americanizzata, è arrivato a un certo punto. Purtroppo, Antone, purtroppo è così. Vabbè, dai, come fa? Tiriamo avanti. Va bene, dai, signori, io ne approfitto, dai. Approfitto che devo andare a farmi una piccola passeggiatina, diciamo la solita passeggiatina, dai. Devo portare un attimino il mio caro amico Fedele a fargli fare anche a lui la sua passeggiatina. Dai, ciao Gianni, ce la risentiamo, ciao Antone, tutte le prossimine. Ci sentiamo, dai. Buona serata e buona continuazione. E se vai a letto, buonanotte. Avanti Antone. Ciao Sa, buona passeggiata. Ci sentiamo alle prossime. Antone, diciamo che quel libro è molto bello, è come quello per smettere di fumare. Non so se tu l'hai letto, c'è un libro per smettere di fumare. Leggi il libro, ti convince e cosa. Tu per quanto riuscirai a farla questa dieta, io ti auguro che tu riesca a farla, e bene anche. Ma per quanto tempo la farai? Beh, alla fine ti stufi. sinceramente ancora non ci ho pensato a farla, e me lo sto leggendo con calma, cercando di capire e facendomi anche delle ricerche, perché l'ho visto abbastanza interessante. E qui ci inizi, in poche parole devi fare una terapia massimo. Allora, se non c'è il cancro, che stai, diciamo, bene, non c'è nessun problema, la puoi fare per disintossicarti, dunque dovrebbe durare, se non sbaglio, 3-4 mesi, dopo il quarto mese di terapia, seguendo la lettera, il mangiare, e purtroppo devi fare questa serie di cristiri, che poi a quanto pare, è vero, ho fatto anche una ricerca, i cristiri vengono usati anche al tempo degli egiziani, e loro usavano altre sostanze per alleviare dei dolori. Dunque questo fatto di cristiere è già conosciuto da tempi antichi, non giustamente non usavano il caffè, usavano altre sostanze per curare alcuni malanni. Dunque se fai una terapia di 4 mesi, finisci di fare i cristiri, poi devi continuare a mangiare sempre frutta, verdura e cereali, eliminando carne, pesce e derivati. Dunque il più possibile vegetali vivi, ecco tutto lì. Il discorso dopo che fa terapia, quindi continua a seguire questo stile di vita eliminando Coca-Cola, aranciata, tutto quello che comporta, formaggi derivati, carne, usare alcuni prodotti, diciamo, per l'igiene intima e personale, ci sono, dici anche che prodotti devi usare, trattamenti biologici. Quindi io ho trovato questo sapone in via Turritana che si chiama Aleppo, non so se l'hai mai sentito questo sapone, Aleppo, viene fatto in Siria ed è stato inventato nel 2500 a.C., una cosa del genere, ed è per 100% vegetale ed è composto da olio d'oliva, essenza di alloro, che parte dall'1 al 60% l'essenza di alloro, dunque più c'è essenza di alloro più ha qualità il sapone, io l'ho trovato al 16%, è pure una sostanza vegetale per compattare questi due ingredienti, tu ti lavi così, non ha nessun profumo, fa schiuma, ti lavi e basta, appunto, ed è 100% vegetale e biologico, ecco, e ti puoi lavare benissimo sia il corpo che i capelli, dunque elimini già gli shampoo, i balsami, il bagno schiuma e compagnia bella. Ecco, devi avere questi piccoli accorgimenti nel mangiare, ripeto, sempre, devi diventare, arrivato a un certo punto, vegetariano, per stare bene, secondo questo medico. Ci vuole, diciamo, molta costanza a fare queste cose. Sì, quello già è vero, pienamente d'accordo. Per fatto, diciamo, di questi cristiri, dice il caffè, lo spiega come diavolo è venuto in mente, perché poi dice nella prima guerra mondiale c'erano tantissimi feriti, dice, e la morfina non bastava all'epoca, no, facevano troppi feriti, dunque per cercare di alleviare i dolori. Dunque gli infermieri all'epoca non sapevano più cosa fare. Allora ora non so per quale caso strano gli è venuto in mente di fargli i cristiri di caffè. Dunque dice il caffè non mancava mai e c'era in abbondanza, invece la morfina no. Dunque facevano, diciamo, il caffè, lo diluivano in acqua e gli facevano i cristiri, perché i cristiri servono per alleviare molti dolori, e si sono accorti che le persone in giro di pochi giorni si riprendevano, dicevano avevano meno dolori. Già da lì lui ha preso in considerazione, diciamo, questa idea strana che è venuta così per caso, l'ha sperimentata e si è accorto che veramente funzionava, però abbinata, diciamo, agli alimenti biologici vegetali, ripeto, eliminando carne e tutti i suoi derivati. Quindi si è accorto che questa tecnica funzionava e da lì ha sperimentato e, diciamo, è diventato famoso per, diciamo, per queste scoperte, ecco. Oh, Antone, è venuta l'ora, mi si stanno chiudendo gli occhi, io ti saluto, questa sera per me è Tend, ti saluto, magari ci sentiamo domani se vuoi, non c'è nessun problema. Perfetto, fammi uno squillo, tanto verso l'ora di cena. Sì, verso cena, verso le 8:30 rientro. Perfetto, va benissimo, lo attendo qui direttamente sul canale 10, poi se mi sento chiamare già mi avvicino. Ora ti auguro buona serata, ci sentiamo già, buonanotte. Buonanotte Antonio, ci sentiamo.